siamo una piccola associazione di mini rugby, ci occupiamo di ragazzi, bambini che sono delle categorie più piccole, quindi dai 5 anni fino ai 14 anni. E crediamo fortemente nello sport, nel valore dello sport come veicolo di messaggi positivi, di oltre che di un sano agonismo e un sano appunto, movimento per i nostri ragazzi. E, siamo, come dire, appunto, sempre molto sensibili, diciamo, come associazione a quello che ci circonda, e quindi cerchiamo poi di riportare tutte le cose che cadono nel nostro intorno anche verso i nostri ragazzi. Quindi pensavo proprio di partire da lì, cioè dalla nostra realtà, per poter diciamo, coinvolgere su questo tema, quindi focalizzare su questo tema, riaccendere un pochino i riflettori su quello che è stato il terremoto dell'Emilia, proprio utilizzando questo evento sportivo.